Stanotte facciamo l'amore internazionale o nostrano. Non sa di peccato, sa di bisogno, sa di sogno offuscato, appannato, bagnato, covato appena nato. Appena Marco l'emozione sale, appena marca male viene voglia di scappare. Ieri sera sul divano t'ho mezza spogliata, non eri svogliata, oltre la soglia ti eri spostata. Di sogno nuda come t'han creata. Sei tranquilla in canotte e mutandine, mi accarezzo e sento che ti piace. La mia pelle e le tue mani che disegnano le linee. Stringo i tuoi seni abbondanti, la bocca che bacia, gli sguardi sognanti. Ti abbraccio, ti bacio, ti strizzo il culo. L'amore, i rumori, le mani sul muro. I colpi sul letto, i colpi lenti, forti. Il vento fresco, il bordo ti sporgi. Accarezzami ancora che il fuoco brucia. Non sei confusa, sorridi, abusa. Sei una gatta che fa le fuse. Ah yeah, it's the funk room, Latin lovers. Pellicola vecchia e rovinata. Sì, gira come. Oh, oh, una pellicola vecchia e rovinata. Lo sai, gira come. Ah, yeah. Sexy, calda, porno 70, sei buona 70. Sexy, calda, porno 70, sei buona 70. E accarezzami ancora, che il fuoco brucia. Non sei confusa, sorridi e abusa. Sei una gatta che fa le fusa. Oh Lord. E accarezzami ancora che il fuoco brucia. Non sei confusa, sorridi affusa. Sei una gatta che fa le fusa. Yes, funk room, Latin lovers, Milano, fire. Yes, that's there. Sexy lady. Ancora, ancora.